così te ne vai. Forse mi mancherai. Non si può stare su. Amo te, niente più. E non c'è più bisogno di inventare l'essere per poterti divertire. La scusa dei blue jeans che fanno male per poi finire sempre a far l'amore. E non c'è più la luna che ti guarda, avevi detto tu che è un po' bugiarda. Il vento che portava il tuo sapore, la voglia matta di ricominciare. Piangerai, forse sì, forse no, se non piangi tu. Scriverai, forse no, forse sì, se mi scrivi tu. Dove andrai? Forse qua, forse là ti ritroverò. Ci sarai, forse solo un momento ti aspetterò. E non ti posso dire più domani, ripeti mille volte che mi ami. Sei dolce tu che prendi la mia mano, lo sai che come te non c'è nessuno. Come un bambino non sa parlare, stammi vicino, non mi lasciare. Piangerai, forse sì, forse no, se non piangi tu. Scriverai, forse no, forse sì, se mi scrivi tu. Dove andrai? Forse qua, forse là ti ritroverò. Ci sarai, forse solo un momento ti aspetterò. E non c'è più la luna che ti guarda, l'avevi detto tu che un po' bugiarda. Il vento che portava il suo sapore, la voglia matta di ricominciare. E non c'è più bisogno di usare l'essere per poterti divertire. La scusa dei blue jeans che fanno